cattivo, non si può finire in Dio né ciò fa. Gappa, ma andrà bene. E cosa vuoi che ti dica? No, io, diciamo, sono tutta la sera a casa, amico, ho computer acceso, ogni tanto vado e mi gioco, però la radio è sempre accesa, così che tutti i passaggi che ci sono nella canaletta, meno male li sento. E io ho capito, vai. Come sto andando di radio con questo, che non ha parecchio che non usarlo? Ma io ti ascolto bene. Senti, allora ho per Radio 5. Però aspetta un attimo che... così va meglio. La mazza. Così sei salito quasi a 9:20. No, così ho abbassato veramente. Ah, io quindi ve lo segnale che si... forse sono i picchi di modulazione, no. Niente. E infatti dovrei essere anche mazzo di... vedi, adesso già si vedono. No, erano i picchi di... invece positivi che quando volo li vanno su. Lo so. Ma ha abbassato la potenza, perché tanto non ce n'è bisogno di potenza per parlare qua, sono anche fuori frequenza, stiamo avanti. Adesso sono in frequenza pure, ero qualche chilometro più sotto. Vabbè, ma questi malacchini sono a larga banda e ti sento bene uguale, capito? Non sono con un con l'altro, sono sempre con Galaxy, quelli che hanno la banda larga, questi, e bene o male si sente tutti bene. Io adesso c'hanno le cuscie larghe, invece io ho quel presente, ma l'ho detto che è freddo, papà, e se non sei lì, ma la sorte te ne accorgi subito, allora devi spostarti appena per sentire bene la gente. Capo di positivo, quando c'hanno le cuscie strette è un macello, No, questo qui, diciamo che va bene sia come modulazione, ma anche come ricezione, che se ce n'è anche qualcuno che è leggermente spostato, lo senti bene uguale. Già lo so. Io me ne sono accorto perché non avevo messo l'affare per bocca all'altra, ho fatto qualcosa e me ne sono andato appena più sotto, no? Già ho ripristinato tutto. Ho messo il blocco così almeno non si sposta. Capri positivo, riprendi Capri, hai visto che anche Capri stasera si fa sentire bene. Santiago sì, la radio è 5, va bene, vai. Aspetta, ok, adesso la Natalì ha aumentato qualcosa il segnale, guarda adesso. Ha aumentato un bel po', adesso sì, 8. Ok, una roba ho fatto, ma con lo schema di tipo elettronica con il transistor, è già va bene, però ancora tu non lo scappo, l'ho fatta così. O come si chiama di quelli a MOSFET, e già fa, già sembra che sia andato, sto usando un midi con le bande laterali, una calizzazione valve. Ho capito, vanno bene quelli. Ho preso per le bande laterali, capito, se lo fai con quello, con 23, poi passa, capito, e niente, così che all'estate, diciamo, facevo anche qualche ex, così, niente di speciale, riprendi là. Gappa, ma io in estate, più che fare gli ex, preferisco andare al mare. A me il mare mi piace andare a girare buoni, sì, ma a fare spiaggia. spiaggia è la morte per me, la morte è il mare, la spiaggia mi uccide, il mare è proprio una cosa che non mi compare, se te è natalizio. Ecco, ma già provato una lateral con l'apparecchio? Sì, l'ho provato stamattina quando non volevo provare. Vai sempre qua, non toccare nulla, vai Uniform Santiago Bravo USB. Ok, via, parla che io ti sintonizzo. Scommetto da sentire o stai modulando? Sta tutto bella! cosa con una casa del saluto, cavolo. Ma che lo affido, eh? Ma che mi saluto quindi così alto, non ho capito. Ma se arriva di me non sale di più, voglio comprendere il tuo baracchino. E ho finito i baracchini, sono tutti. Ho una perdita di tempo, Lu, come ti arrivo invece io in quelle coordinate, Lu, adesso? Santiago 7 di Radio Bomba, non c'è problema, tutto a togliere qua, guarda. E già andrà bene meno come se era Natalino, ripeti Natalino. E andrà bene meno. Non mi ascoltavi dove c'è di Gianni. Insomma Natalino, bomba, questa estate se siamo sani e tutto quanto facciamo qualche polidiex. Adesso ho fatto quella scatoletta da 100 watt mi spara, a preciso. E ok, così diciamo, e mi piace a modulare, a fare questi DX, perché in estate quando ero ragazzo avevo le QSL nella stadia, ogni giorno il profilo ne portavo a una, ma ci devo essere da mamma mia ancora, e ho collegato anche stati esteri, allora è che ero a scuola con l'inglese, ci avevo un po' di dimestichezza, importante c'è. Capito, ne avevo comprato anche una selezione a dischi per perfezionarlo, che ci devo ancora, però adesso sono diventato un bambino poi, e non mi ammetto più nulla, riprendi Luca. Ecco, faccio vabbè troppo, sicuro, una portantina qua a Sassari, 35, 267, facciamo, c'è problema, dai. Un po' ti disturbavo la radio, ma tu ho capito tutto quello che hai detto, parlavi di collegamenti, dai. Andare, dai, avanti. Non so chi c'è rimasto, Natali, fai girare tu, non lo so, neanche, vai. Io tu Mario e Gianni. Mario è andato a prepararsi, quindi non c'è. Ok. Gianni, tu segui a me e vedrai che i collegamenti come si fanno, fatta. Sì, sì, già lo credo già, Natali. E ne ho fatto ora le ore questa macchina. Dalla macchina Natalini, dalla macchina. Allora non le avevo a patente e ne ho piantato questa antenna, bravo. E molte volte bisognava, perché lui lavorava alle ferrovie, lavorava, alle una metà partiva, molte volte l'abbiamo dovuta spingere perché gli avevo buttato un giorno la batteria a terra, il cazzato nero. Non è perché tu guardi il vignaretto col motore spento, scommetto. No, negativo, non ne avevo lineare, non sono andata lì allora. Allora ci avevo, dopo il K2 ci avevo un facce 123, ci avevo. Noi usavo andava, era una meraviglia con queste antenne, però diciamo che anche la termosfera era più fluida, la propagazione arrivava. Hai capito? Niente, il lineare è venuto dopo, me ne avevo comprato uno da 25 watt piccolino e poi ci avevo l'altro, quello con orgoglio di 100 watt che era mio cugino che è camionista adesso che lavora con Prece, e gli ho chiesto, lo sai già che non so dopo Prece, no, quello sparava a 100 e 100 watt era, guarda, la fine del mondo, e poi ero passato quando aveva ruolato, che avevo il miraggio quasi da un chilo quasi, e ci ho lasciato quello lì quando mi sono congelato e l'apparecchio, perché lui ne aveva con tutti, per non dire che me lo portavo via, e dal giorno da lì poi che ero rientrato mi ho comprato quello Spini che c'ho ancora qua, che c'è rotto proprio quest'anno, e qualche cazzata, qualche resistenza sarà, e niente, l'unica volta che ho comprato roba a Valvole. Così, però in macchina li facevo, andavo con la Sigma di quelle di Exua dietro la capota e usciva una bellezza, il liscio come l'olio, riprendi? No, anche io ce l'avevo quell'antenna lì, pensavo alla macchina scendendo qua, da qua ho collegato Champagne in Francia, poi vicino a casa di Luca ho collegato l'Inghilterra. Abbiamo riuscito la mappa che te ne scenda, perché questo qui ha detto, è proprio di un portoghese o inglese, a chi la slinghi non li comprendo, ha detto. Allora l'ho parlato in inglese, Gigi Vulcano se ne è fuggito che non capiva nulla, e io ho saltato mezz'ora lì, collegando, e alla fine l'ho mollato perché è cata, se no la casa di lui in TV, gli ho detto che non lo sentivo più, invece no. Ah, c'era anche Falchetto, c'era. Perché ho l'altro, quello lì basta metterlo a posto, è una cazzata, perché ho sbagliato punti romanti, c'ha due, tre, due transito, sento che li trovo tranquillamente, con cui pareti, se male male che farà che non apriti che fa di solo il transito, hai capito, non mi ho messo problemi da lì, basta, te lo lascio, chi lo vuole se lo prende, e invece ho preso questo apparato. Sì, forse hai fatto meglio, capito. Almeno ti giochi in estate. Sì, perché i microfoni ne ho adesso, Natalino. Io questo pezzo lo attacco dell'ideale, però anche Gianni stava modulando, non dispiace lo show. Però l'altro pezzo a lui dice Pierpaolo che se ne fa parte i capelli allo show, ma quelli lì sono sicuramente microfoni natali che venivano lanciati negli apparecchi da allora, magari l'apparecchio da allora col mic di dotazione usciva, ma non bene, ha attaccato lo show, ma io quello modulava, diciamo, o cambiava la modulazione dal buono al migliore, allora come quello di microfono non c'era, però adesso ci sono anche dei microfoni più sofisticati come sono gli apparati. Io te l'appoggio. Sì, lo credo già, mi ha compucco, lo credo. Ehi, cosa vuoi? E per esempio quel carnet più 2, sono andato a attaccarlo al presidente, non funzionava, non andava bene. L'ho attaccato all'857 ed è un demonio. Vedi? Se lo attacco qua lo stesso va bene. Non è presidente niente. Nel presidente ci va l'MB più 4 e basta. Ma io la salita in carne, io ti ho ripreso le connessioni, delle connessioni per tutti gli apparati. Poi ho capito, io già ce l'ho già detto. Che non c'è problema anche senza il libro. Sì, Antonello, buonasera, vieni avanti. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Bene, sì. Ok, io ho fatto quella roba cattoletta, tu me sembra che va bene, solo che quella roba lì tu l'ho letto ancora e lì bisogna accorciare con il capo dell'antenna che sicuramente era una roba per le barrabombe, comunque 100 mi dai, 100 su 4 metro segna 100. Meglio così, già va bene, almeno si beve come si deve. Stavo dicendo ancora una cosa, ma allora se io vedo il 340 me lo va quell'apparato? Non credo, no, non lo so, domani se lo vedo glielo chiedo. E uno come quello che c'è tu, Leoni, preciso identico? Glielo chiedo se lo vuole domani, se lo vuole dimmi che si può fare, capito? Ok, intanto quello lì, trovato l'hai tu a come, quello lì non esce di radio, va mi conferma che siamo tra noi a come, come radio non esce quell'apparecchio, Ma apparecchio lì? Sì, non ti sentivano ieri. Sì, non mi sentivano perché c'avevo problemi d'antenna, poi stamattina gli ha attaccato il rosmetto e usciva bene, poi non lo so. Comunque c'è anche le valvole da sostituire, le valvole non sono da sostituire perché io lo so che quegli apparecchi li conosco e c'è valvole da sostituire, ci vorrà minimo minimo, non dico molto, facendo il calcolo di quante ne ha, di circa più di 50 euro in valvole. Già conosco l'amico che c'ha le valvole buttate e il coso a casa sua, se gli chiedo già me le dà. Io Antone sono andato per il Pierciticio a comprarne due da Fusaro, praticamente ho preso le valvole finali e le DM5, mi sembra che sia durante un attimo che il foglietto mi ricordo comunque, e me ne ha fatte fare 15 euro l'una, ci sono la Giovanna perché mi conosce qualcuno, quindi quelle lì sono meglio 84, 6, 5, 5, 9, 6, 8 e costano non ho trovato niente, domani provo a dare il microfono più fissato e vedere fino a dove arriva questo apparecchio qua. Vediamo se va sotto, se va sopra. Ok, non lo so come io la porta, il WFO diciamo che andava nell'ambito già visto dalle vendite canali, però c'era anche alcuni modelli che andavano sotto l'uno e l'ho visto, io ho andato sul conto perché ero a farli in casa in quanti unico, però era molto chiuso, quindi caso di quello che tengo io. E cosa ti volevo dire come? Per trovarlo, guarda che ho avuto già che nell'audio della modulazione va poco a poco, quindi tu lo apri, guarda che c'è dove ci sono le leggi da molletta, le switching, le reponi, fa appunto quelle lì, perché io nello schema mi trovo che il preamplificatore microfonico e lì anche dove c'era il coro che hanno già preso un potenziometro, un volume da fuori, diciamo che ci vuole, però comunque per entrare in funzione il preamplificatore entra in funzione quando uno inserisce come si chiama, quando si inserisce il relè, perché mi me lo dà a me lo schema, il relè che è collegato al preamplificatore. Sì, vabbè, già c'è un CRC per quello, non è un problema, voglio controllare anche i falsi. Facciamo una bella pulizia domani, vediamo se funziona meglio. Poi io sono con l'antenna piccola, questa è roba di segnatura con l'antenna grande, questo apparecchio no, con l'antenna piccola, come dicevo io. Non ci ha resa così, capito? Tutti molti? Ma io non ci sono. Adesso questo momento sto usando un incontro con il microfono sa delta. Ho capito. Ti esce bene già. A voglia. E te credo. Sì, 30 euro l'ho venduto il tuo microfono. L'altro giorno, questo sa delta. Non ho capito, l'hai detto. Che l'ha venduto 30 euro l'altro giorno. Questo microfono qua. A me ne voleva 50, hai visto? Mi ha già venduto in pratica. Poi devono dargli i soldi. Ma pare che ce l'ho ancora io qua, se l'ha lasciato qua la fusione. Ma ce l'ho ancora io. Caggio da riva. Tu quanto io gliel'avrei preso. Io l'avrei già venduto. Cioè va bene comunque. Questo prezzo qui va bene. Già c'è roba su BMI a poco prezzo. Ci sono i Saturneco, 100 euro, 120, 150, 999, c'è la roba. Se vogliamo comprare, ma non conviene. Cosa mi hai detto? La casa dei banchi? No, saranno. Io al limite vado su BMI, compro un po' di maialetti. Se ci sono a poco prezzo me ne mangio. E tu mi dirai me. Sono poco, vendono molto. Gira, me la chiudo io e me ne vado a letto che sono stanco. Se non fa male il collo, maledizione. Mi basta pompare di meno. Sì, ma cosa pompare, cosa pompare. Ruia, vieni a venire. Ah, te lo provare, un aggeggio. Tu vuoi che devo provare, no? Se ci vuoi andare ti dico la frequenza e così lo provo. No, c'è tutto spento, sto chiudendo, ci sentiamo un altro momento che mi sono pure le mie luci, poi c'ho un collo che mi sta facendo un po' male stasera, boh. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, saluto a tutti, io me ne faccio un po' di tanto stavo aspettando qua che entrasse Adriano, ma non si è fatto sentire. Vabbè, altro noise blanker, quello lì è. E io l'ho alzato, ma sta lì, non mi copio quando alzo quello. Ma noise blanker, quello è un filtro. Sono parecchi, che sono, erano fermi da parecchio tempo. Capito? non riceve le tablette, cioè le tablette le trasmette, non riceve, devo provare a vedere cos'è, se le BPL, siccome c'è il BLL che monta, non so se mi sa quello, o qualche passo contatto, e quindi lo controllo meglio, più o meno tormento. D'accordo, d'accordo. D'accordo, d'accordo. D'accordo, sì. Ciao, buonasera. Mi fa lo squillo e ci troviamo, capito? Non c'è problema.